Questo nuovo appuntamento con Figli di, questo fantastico programma che giunge ormai alla sua seconda puntata, senza chiaramente considerare i numeri zero e sotto zero, un programma che si pone come obiettivo quello di dilettare, insomma, diciamo così, il vasto e folto pubblico di transizione di fase. Figli di, lo ricordiamo, è un programma che va in onda dalle officine Babilonia, uno spazio, diciamo così, occupato, che si trova proprio a Cosenza, nell'area dell'ex officina delle Ferrovie della Calabria. Ogni settimana noi andiamo a individuare uno specifico tema da trattare per questa volta, per questa seconda puntata di Figli di, abbiamo pensato di parlare di un tema molto caro al giorno d'oggi, ovvero parlare delle incomprensioni. E per fare questo abbiamo scelto come ospiti in contumacia addirittura i Verdena, un gruppo che davvero ne sa tanto di incomprensione. Sfidiamo i nostri ascoltatori a comprendere appieno tutte le canzoni, tutti i testi dei Verdena, almeno al primo ascolto. E quindi parliamo di incomprensione, di quando, cioè, non riusciamo a capire che cosa dice l'altro, non riusciamo dunque a comunicare, c'è questo difetto di comunicazione e quindi si creano poi tutta una serie di dimensioni paradossali, di incomprensioni, di liti, insomma, e di varie altre situazioni. E approfitteremo dunque dei testi fantastici di Verdena proprio per parlare di questo. Abbiamo appena ascoltato proprio una canzone adeguatissima alla situazione, ovvero abbiamo ascoltato Grattacielo, una canzone contenuta in Wow, l'ultimo lavoro del 2011 dei Verdena. E proprio ci piace davvero tanto questa canzone, perché poi alla fine descrive proprio questa incomunicabilità, questa totale... come dire, distrazione delle parole. Infatti recita la canzone: tu distrai le mie parole, nel senso che tu trasformi del tutto le mie parole, quindi non riuscirai mai a capire e io non riuscirò mai a capire, forse non capirò mai, canta Alberto dei Verdena. Ebbene, questa è una situazione davvero molto frequente. Tante volte non ci capita di parlare con un'altra persona e di capire e di vedere come effettivamente quell'altra persona stia del tutto travisando le nostre parole, quindi si crea quella sorta di incomprensione fantastica e straordinaria che non ci permette proprio di capire una mazza, insomma, come si suol dire. Ma dopo questo fantastico dopo questa fantastica introduzione dei nostri amici Verdena, che distraggono le parole e sono davvero maestri in questo, ci apprestiamo ad ascoltare un'altra canzone, Loniterp, sempre contenuta in Wow, il doppio CD del 2011. Beh, già dal titolo Loniterp, insomma, che caspita vorrà mai dire questo Loniterp? E in effetti questo gioco di parole è quello che ci apprestiamo a sentire. We'll be right back. partiamo proprio da questa canzone, insomma, già dal titolo Lonely Terp dicevamo non si capisce niente, perché praticamente sarebbe un anagramma, perché il titolo iniziale doveva essere Interpol, se non sbaglio. Ad ogni modo, come avete potuto ascoltare, in questa canzone la parte finale, un po' come in molte canzoni degli anni 70-60, in particolare pensiamo ai Beatles, ai White Album, eccetera, eccetera, c'era questa mania di mandare sorta di messaggi subliminali, ma sono anche cose un po' mitologiche, comunque sì, ci sono, di mandare dunque queste parole, queste frasi al contrario, per rendere insomma un po' misterioso il testo, un testo che comunque all'inizio è veramente molto chiaro, malgrado tutto, malgrado la parte finale che vi invitiamo a riascoltare, che poi alcuni vedono messaggi infernali, se ci sono vabbè, tanto meglio, capirai che ci frega. Però ci piace molto l'inizio, l'incipit di Lonely Terp, perché dice: sparirò come senza rimpianti. E quando non ci si capisce, magari la cosa migliore è proprio sparire senza rimpianti, soprattutto. Però certo è una triste sorte, il treno galoppa e via, e andiamo avanti, perché siamo proprio scimmie terrestri. Questa canzone, infatti, se voi andate un po' su YouTube, viene definita come la canzone delle scimmie. Ma ora è il momento di andare avanti, quindi vi ricordiamo di ascoltare al contrario questa canzoncina molto simpatica, Lonely Terp, ma ora ritorniamo un po' indietro negli anni. abbiamo ascoltato infatti questa bella canzoncina del 2004, una canzone contenuta nel CD Il suicidio del samurai, che ha come titolo Glamodrama. Già il titolo, insomma, ci dice tutto, ci dice tanto, diciamo, cioè sul fatto che non si capisca niente. Effettivamente no, il significato nelle canzoni di Verdena noi siamo sicuri che ci sia sempre più o meno, però è da dire che molte volte, come gli stessi Verdena hanno dichiarato, il loro la loro ricerca punta soprattutto sul suono, quindi sul suono anche delle parole stesse, che a volte, come essi stessi sostengono, vengono, diciamo, poste in vicinanza, in prossimità di altre parole che in apparenza non hanno nessun senso logico fra di loro, ma hanno solo un bel suono. Però in questo testo, insomma, quello che ci colpisce molto è questo riferimento alla psicoanalisi, che non funziona più come io vorrei, dice Alberti, il cantante compositore dei Verdena. E poi, insomma, c'è questo riferimento all'ansia divora come un demone, insomma, anche se in realtà questa similitudine non c'è. Insomma, un testo tutto da scoprire e da interpretare e da comprendere. Transizione di fase, è un piccolo problema tecnico, ci stava sempre, perché siete all'ascolto di Figli di, un programma che viene realizzato all'interno delle Officine Babilone. In questo momento mi trovo nello studio delle Officine Babilone, che in realtà è un piccolo sgabuzzino però è molto carino, molto colorato. Per chi non lo sapesse, vi invito a venire qui a Cosenza a visitarlo. Vi ricordo che stiamo parlando attraverso i nostri ospiti in contumacia, ossia i Verdena, della incomprensibilità. Ebbene, abbiamo ascoltato proprio ora una canzone, il singolo, uno dei singoli estratti dal doppio CD Wow del 2011, ovvero, attenzione che non me lo ricordo bene, non mi ricordo bene il titolo, e questo è un altro di quei tipici inconvenienti tecnici che potete ascoltare solo quando c'è qualche diretta da Cosenza. E quindi avete ascoltato insieme a noi Razzi Arpia, Inferno e Fiamme. E beh, già questo titolo, già il titolo insomma un po' ci dice, chissà di che caspita si sta parlando. Quindi anche qui quei livelli di incomprensione che sono tipici dei testi dei Verdena, ci sta tutto, insomma. E per esempio ricordiamo un aneddoto fra i tanti riguardante questa canzone. Per esempio al quarto verso, dove si dice mi accciglierò, c'è chi diceva mi accciglierò, chi diceva fra ciglierò, eccetera, eccetera, e non si capiva niente. Addirittura è stato necessario un'intervista di Alberto, appunto il compositore dei Verdena, per svelare il mistero. E Alberto ha detto no, guardate, attenzione, la versione giusta è mi accciglierò. Ebbene, che caspita vorrà dire, insomma, vabbè, non sappiamo. Dovremmo fare uno studio veramente di tipo, diciamo, linguistico, filologico, per ricostruire l'esatta dinamica del testo, l'esatta, come dire, l'esatto accostamento di significato e significante, ripetendo qualche lezioncina di linguistica generale degli strutturalisti sassuriani. Ebbene, se parliamo di queste cose sicuramente raggiungeremo livelli di incomprensione ancora più elevati rispetto ai testi dei Verdena, ma di questo ne siamo consapevoli. E che cosa dire? In tutte queste canzoni che stiamo ascoltando, ma in tante altre canzoni anche dei Verdena, certamente la comprensione e l'incomprensione è la fa da padrona. Ma probabilmente questa incomprensione molte volte deriva dal fatto che ci aspettiamo delle idee precostituite da un testo, da una canzone, mentre questa canzone magari risponde a un'altra idea. Lo stesso vale per i rapporti umani: magari vediamo una persona, la conosciamo, ci facciamo un'idea di quella persona che non corrisponde a vero, e invece di approfondire con il ragionamento subito ci chiudiamo nella incomprensione, nella incomunicabilità. Questo è uno dei principali motivi, a nostro avviso, che determina appunto questo difetto di comunicazione. Poi, vabbè, parlando di linguistica sempre, di sociolinguistica ancora meglio, possiamo ricordare che i difetti di comunicazione derivano anche dai medium con i quali appunto le comunicazioni vengono trasportate. E non a caso, a proposito di comunicazioni trasportate, ricordiamo questo grave episodio che è accaduto a ECN. ECN è il più antico strumento che offre servizi di anonimato in Europa, e che negli scorsi giorni ha visto l'oscuramento di un suo server che era allocato a New York, proprio per volontà dell'FBI, che intendeva colpire un solo servizio di Anonymous Remailer che veniva utilizzato da qualche mente criminosa per mandare dei messaggi, diciamo, di morte a un'università di Filadelfia. E con questa scusa è stato oscurato un intero server, quindi sono venuti a cadere mail, blog e tanti tanti altri servizi di ECN. Ma ora riascoltiamo ancora i Verdena con quest'altra fantastica canzoncina. We'll be right back. Continuano i soliti problemi di natura tecnica, ma niente di grave. Abbiamo appena ascoltato una canzone del 2000 del primo CD ufficiale dei Verdena, che era appunto omonimo, e questa canzone era aveva come suo titolo Pixel. E beh, è una canzone decisamente significativa rispetto al tema da oggi noi scelto. Infatti parla proprio dell'inutilità ormai di dire di più, perché la persona non c'è, non esiste, e soprattutto non è più una visione semplice. In particolare i musicisti dei Verdena si chiedono, ovvero Alberto si chiede, dice di volere di più, però lei niente, non c'è. E poi vabbè, si fa riferimento anche ad altro, probabilmente non sappiamo, perché alla fine dobbiamo dirlo, è vero, insomma, inutile che ci giriamo intorno, molti testi dei Verdena sono ispirati, ma anche con una certa ironia, secondo me, all'uso di sostanze, e quindi tremare perché, con chi, lo sappiamo noi con chi, tremare con qualche sostanza un po' strana magari. Ma un'altra tematica cara ai Verdena è anche la presenza di questo, l'assenza meglio, di questo dio, di un dio che è contro di me, e niente, non c'è niente da fare, non è nemmeno uno sfogo, dice Alberto, però lei non c'è, e questo lei va a capire, insomma, che cos'è, chi è. E niente, l'autore dice che vorrebbe di più, però Dio è contro di lui, insomma. E questa idea di Dio contro è davvero bellissima, malgrado, insomma, queste divinità, queste forze, chi parla è convinto altamente che non vi sia, malgrado magari anche qualche posizione agnostica potrebbe essere utile a sviare la questione. Però, insomma, questa frase, Dio contro di me, ci piace davvero tanto, insomma, Dio contro di me, ma cazzarola, ti potevi fare gli affari tuoi. Ci chiedevano che cazzo, sembra contro, sembra qualcuno che è contro qualcuno o qualcosa che è contro e che appunto impedisce tante cose, impedisce la realizzazione di progetti, determina l'incomprensione, l'incomunicabilità e determina anche tante tante cazzate che si dicono come in questo momento e che noi comunque rivendichiamo e delle quali andiamo altamente fieri, perché insomma altrimenti sappiamo che non sarebbe la stessa puntata Figli di se non fossero appunto contenute tante tante stronzate. Comunque, ritornando ai Verdena, dobbiamo dire che questo primo CD che segue un EP del 97 è stato salutato da molti critici come un disco rivelazione di un nuovo gruppo. I nuovi i Verdena furono definiti all'epoca i nuovi i Nirvana italiani, insomma una definizione che ai Verdena è sempre stata stretta. Certamente in questo primo CD, in questo primo lavoro, c'erano numerose influenze, a nostro parere, della musica grunge, della musica anni 90 sicuramente, però ascoltando poi i seguenti lavori ci si rende tranquillamente conto che questa definizione sta stretta e stava stretta ai Verdena. Proprio ieri, mentre preparavamo insomma la nostra fantastica scaletta per questo bellissimo programma Figli di, che potete ascoltare solo su Transizione di Fase, abbiamo visto una foto sconvolgente a nostro avviso dei Verdena, quando ancora si chiamavano Verbena e poi cambiarono nome per un'omonimia con un gruppo statunitense. E beh, abbiamo visto proprio dei bambini che avevano strumenti in mano, la cosa è stata veramente inquietante a vederli ora, insomma. Però è stato inquietante, magari se andiamo a riguardare qualche nostra foto di 10 anni fa ci fa lo stesso effetto, se non peggio, noi lo sappiamo che è così. Però niente, ora bando alle ciance, ascoltiamo un'altra bella canzone dei Verdena. Abbiamo ascoltato questo bel brano, sempre dell'ultimo lavoro, Wow, del 2011 dei Verdena, Tu e me. E cosa dire, dice il testo della canzone scritta da Alberto, cosa dire, se fosse facile sarebbe bellissimo. E beh, se fosse facile sì, sarebbe bellissimo. Grande, grande affermazione di Alberto, però il verso che davvero ci ha convinto tanto di questa canzone è ci sei o ci fai, perché è una cosa che ci chiediamo molte volte quando di fronte abbiamo una persona che dice ma scusa, ci sei o ci fai, sei cretino o no? Non si sa, e ad ogni modo io non so, appunto, dice Alberto, è un film distorto ormai, tu non lo sai, tu non sai. E poi questo vai così verso il blu, dice la canzone. Ora, questo blu, questo termine, che è questo colore che spesso ricorre nelle canzoni di Verdena, ha dei precisi significati. Fondamentalmente ne potremmo leggere tanti. Sicuramente ricordiamo che il termine blu in inglese non vuol dire solo blu come colore, ma vuol dire anche tristezza, malinconia, insomma. E probabilmente in Irlanda. Che lapsus simpatico. Se mi ascoltassero davvero i Verdena, credo che mi manderebbe una simpaticissima letterina di non so, di con tanti vaffanculo, alala, sì, grazie. Però questa canzone davvero è molto simpatica, ci sei o ci fai, e ce lo chiediamo spesso, molte volte, di fronte ad alcune persone che non capiscono una mazza. Ma ora io direi che è il momento di ascoltare un'altra bellissima canzone che non c'entra molto col tema di oggi, ma ci piace davvero tanto. E sempre, eccola qua, vai! Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato una canzone a cui noi siamo legati particolarmente, lo diciamo. E la prima parte di Sorriso in spiaggia, una canzone sempre contenuta in questo doppio CD che a noi è piaciuto molto, se non l'aveste capito, wow, del 2011. Questa canzone che è divisa in due parti, non abbiamo capito perché, e qui ancora entra in gioco, entra in ballo l'incomprensione. Insomma, è stata divisa in due parti. È ovvio che parla di questa volta di una cosa abbastanza comprensibile. Infatti questo testo dei Verdè, questa canzone, i Verdè l'hanno scritta insieme a un medico della loro città. E questo ci fa capire molto questa dimensione urbana, piccola cittadina del nord Italia, comunque l'Italia in generale, che vivono i Verdena che registrano in una sala prove vicino a un pollaio. Insomma, addirittura c'è una canzone che, nella quale si sente qualche schiamazzo di pecora. Schiamazzo di pecora non si dice, qualche belato di pecora e qualche schiamazzo di gallina. Ebbene, questa canzone Sorrisi Spiaggia, parte 1, parte 2, parla fondamentalmente di un tradimento, ci pare di capire. Ed è bella però perché c'è questa immagine, che è anche molto frequente nei Verdena, di queste rincorse, di queste corse fra gli alberi, che ci restituiscono un'immagine molto bucolica, che a noi è molto gradita, devo dire. E perché ci piace questa canzone? Perché è legata a delle vicende. No, ci sputtaniamo perché ancora non l'avevamo fatto. Perché è legata a delle vicende personali, insomma, di queste rincorse, di queste corse che si fanno e ci si insegue alla fine. Ci si va un attimo a imbruscineare, come si dice, a Cosenza. Vabbè. Ora, dopo questo fantastico momento di sputtanamento generale, che non sarà sicuramente l'unico delle nostre trasmissioni, non a caso ci chiamiamo figli di, va a capire perché che siamo figli di, dell'incomprensione in questa puntata, e quindi se non capite qualcosa magari potete scriverlo nella nostra chat o mandarci un'email a caso, così mandate un'email attraverso ECN Anonymous Remailer, magari arriva qualcosa se l'FBI non ci blocca prima. E questo perché ci ricorda poi l'importanza di avere tutto un sistema di mail criptate che tutelano la nostra privacy, non perché noi vogliamo compiere, ci mancherebbe altro, delle azioni illegali, ma perché ci teniamo alla nostra privacy. Io no, perché altrimenti non vi racconterei tutti i cazzi miei in radio, ma siccome è una mia scelta personale non me ne frega niente. Quindi ripeto, questo Sorriso in Spiaggia è una canzone molto ispirativa. Poi insomma c'è questa idea, c'è questa l'incipit iniziale che ci piace davvero tanto. Danny è di più di un hippie, un grillo, insomma. E poi questo Giuda è con me, farei meglio a non dirlo. Giuda, il traditore, la traditrice, insomma, in questo caso supponiamo una traditrice. Poi i gusti delle persone, non possiamo mai giurare sui gusti delle persone. Sembra certe volte che no, dici guarda che gusti micidiali questa persona c'ha, e poi alla fine niente, sti cazzi, niente, tutto il contrario. Quindi non abbiamo capito una mazza in quel caso. E vabbè, ci sta pure, ci sta, perché noi siamo per le incomprensioni e soprattutto siamo per il nonsense. Basta con queste pesantezze, basta con questo dover dare a tutti i costi un senso e un significato a tutte le cose che facciamo. Basta, diciamo, basta a questa dimensione, forse troppo, come dire, filosofica, occidentale, troppo hegeliana magari. O troppo strutturalista, parlando ancora di linguistica sassuriana. Bene, diciamo basta a tutte queste stronzate, riappropriamoci del nonsense, riappropriamoci della incomprensione. E quindi alla fine sapete che vi diciamo, qui dalle Officine Babilonia, qui da Figli di, il programma che è figlio di qualcosa ma non si sa di che cosa, sapete che vi diciamo? Che siamo altamente fieri di non capire niente, e lo scriviamo anche sui muri. Siamo disposti a fare anche questo, sì, ebbene sì, o nell'eventualità anche uno striscione, insomma, potrebbe andare bene, perché a noi piace molto realizzare degli striscioni. Quindi ecco, utilizziamo la radio per fini privati. Se avete bisogno e necessità di realizzare striscioni per movimenti, e se avete necessità di organizzare una qualsiasi manifestazione su argomenti che non siano antifascisti, che non siano fascisti, scusate questo è gravissimo lapsus, che siano quindi antifascisti e che non vadano a intaccare l'idea insomma, se avete bisogno di fare una manifestazione e noi ci piace fare questa manifestazione, chiamateci, noi veniamo, vi organizziamo tutto, portiamo manifesti, striscioni, portiamo megafoni, siamo in grado di fare anche dei volantini al momento, speakeraggi vari, volantinaggi, insomma ci divertiamo molto. Quindi chiamateci per queste occasioni, magari anche per qualche comparsata cinematografica che giustifica appunto la presenza di una manifestazione. Noi siamo a disposizione, perché ci piace molto fare queste cose. Quindi chiamateci e noi arriveremo subito, insomma, considerando sempre le distanze che ci dividono, distanze reali o immaginarie legate appunto alle incomprensioni. Ebbene, questo è il rush finale, insomma, della nostra trasmissione, perché il nostro obiettivo, lo dichiariamo, era quello di arrivare a un'ora di trasmissione, perché molte volte, insomma, sti cazzi, cerchiamo di fare trasmissioni lunghe e ci vengono corte, viceversa cerchiamo di farle corte e ci vengono lunghe, insomma, non comprendiamo il meccanismo che determina tutto questo essere. Ad ogni modo è così, E non possiamo farci nulla. Non ci resta che rimanere lì ad osservare imperturiti come un Buddha che non capisce niente, perché noi abbiamo anche l'impressione che a volte il Buddha è preso nel suo nirvana, non capisco una mazza di quello che gli stia intorno. Ebbene, siamo anche un po' blasfemi, ma non solo della religione cattolica, perché non sarebbe giusto, insomma, non troviamo giusto questa discriminazione. Perché solo la religione cattolica? No, dobbiamo anche prendere in giro un po' tutte le altre religioni, e questa sera è toccato al buddismo, magari la prossima volta toccherà all'induismo, poi al sincretismo, vediamo, insomma, vediamo un po' alla santeria cubana, minchia, quella è terribile, insomma, magari qualcuno di noi ci può lanciare qualche dira, come dicevano i latini, qualche yestima, come si dice a Cosenza. Effettivamente, una piccola precisazione, noi la yestima, secondo noi, la stiamo subendo veramente, insomma, e quindi salutiamo sempre la nostra amica Guglielmina, che prima o poi tornerà fra noi, perché una yestima veramente ci ha colpito da gennaio, secondo me. E una cazzì, yestima incredibile, cioè ogni cosa che proviamo a fare è tutto sbagliato, tutto viene tutto a cazzi, insomma, non sappiamo. E per dirne una, stasera il mixer, che finalmente siamo riusciti a montare da soli, aveva praticamente una prolunga scaccatissima che andava e veniva, andava di cazzi, è una yestima. Quando ha appena pronunciato questo termine yestima, il mix ha ripreso magicamente, o meglio, la presa ha magicamente ripreso a funzionare, quindi abbiamo capito, era proprio una yestima. Ecco qua, abbiamo capito bene. Questo rush finale ci sta tutto, però questo rush finale ci piace davvero tanto, è quello che proprio ci caratterizza come figli di, perché alla fine in realtà questo figli di noi lo sappiamo di chi siamo figli diciamo ideologici, ma e lo sappiamo molto bene e ne siamo fieri, però non lo diciamo perché poi che magari ce la tiriamo, quindi no, lungi da noi, perché proprio siamo persone che non se la tirano affatto in nessun caso e in nessun senso. Ecco qua, bene, mancano addirittura 5 minuti, dico, no, in realtà mancherebbero 10 minuti per giungere ad un'ora di trasmissione, e forse ce la facciamo aggiungendo una canzone finale, magari potremmo ascoltare, sì, la parte finale di Sorrisi in spiaggia, parte seconda, giusto per non spezzare questa bella canzone che veramente a noi ci piace, che a noi piace veramente tanto. Ho fatto anche un errore di grammatica italiana di cui sono molto fiera. In questo momento ho sbattuto il dente, per chi lo volesse sapere, sul microfono. Un Proel fantastico, che questa volta devo dire sta facendo il suo lavoro, e siamo sicuri che questa volta la nostra voce qui dalle officine Babilonia, qui dal programma Figli di, qui da transizione di fase, siamo sicuri che giunge a voi forte e chiara, senza i vari ronzì che ci caratterizzano spesso. Veramente abbiamo sconcluso tantissimo. Non ci resta che salutarvi a questo punto, seriamente, e ricordarvi che avete ascoltato la seconda puntata di Figli di, una puntata questa volta dedicata alle incomprensioni, alla incomprensione che ha avuto come suoi ospiti in contumacia niente poco di meno che i Verdena. Questo programma, ve lo ricordiamo, è realizzato all'interno delle officine Babilone di Cosenza e viene trasmesso soltanto su Radio Transizione di Fase. Ma a questo punto vi lasciamo a un nuovo bellissimo programma, alla seconda puntata di Tre Menti Sopra il Clero. Questa volta siamo sicuri di non fare figure di merda con Tre Menti Sopra il Clero, perché dovete sapere che la scorsa settimana abbiamo fatto uno di quei casini micidiali, abbiamo lasciato Oddcast acceso, praticamente si streamava da Cosenza mentre si doveva streamare da Tre Menti Sopra il Cielo, e per una buona mezz'ora sicuramente dalla radio Transizione di Fase avete sentito una serie di cazzate enormi. Speriamo che non sia giunta a voi il senso di quello che si diceva, perché insomma sarebbe stato un po' sputtanante, diciamo così, però ci sta tutto nella nostra dimensione. Quindi niente, ora vi salutiamo, vi lasciamo a Tre Menti Sopra il Clero, alle quali chiediamo ancora scusa speriamo che non ci mandino qualche dira maledetta. E vi lasciamo veramente all'ultimo brano dei Verdena, che ci hanno fatto compagnia in questa puntata di Figli di. Quindi ascoltiamo la seconda parte di Sorrisi in spiaggia, che è contenuto nell'ultimo lavoro dei Verdena del 2011, cioè wow. Bene, è veramente tutto, non ci resta che salutarvi e darvi il prossimo appuntamento al prossimo giovedì sera con Figli di, e a seguire alle 22 sempre Tre Menti Sopra il Clero. Vi ricordo che potete ascoltare comunque i nostri podcast su figlidi.wordpress.org.com, non mi ricordo in realtà, comunque beh, si sa, WordPress. L'abbiamo fatto su WordPress per sbrigarci, lo ammettiamo, chiediamo scusa al mio blog. Ebbene sì, a questo punto basta, finitela, finiamola. E vi lasciamo ai Verdena. Ciao ciao. Yeah.